onda Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica Simone. One. Venerdì 10 giugno 2016. Ecco, mi sto... come volevasi dimostrare, tutti. Siamo ancora qua. Siamo tornati insieme dopo una settimana di meritato riposo mio. Il tuo. Esatto. Che non voglio dire, non è che nemmeno è stato spezzato da una giornata di lavoro. Di lavoro, no, solo riposo. Questo è Radio F, questo è l'inizio della fine. Del fine settimana, chiaramente. Esatto. Non vi preoccupate, questa è Piazza Alta. E stasera abbiamo dato una piccola anticipazione in diretta. Parliamo di sport. Ma una sport. Personalmente a me è lontanissima proprio come concetto fisico. Al massimo tu hai bastoncini, ma questa è un'altra storia. Ma Enzo, parliamo di sport perché ovviamente il nostro territorio, il nostro paese ci offre c'ha le salite no. E soprattutto anche le discese, ma ci offre personaggi che in breve tempo assurgono alle cronache nazionali stabilendo record su record. E dopo assurgono possiamo andare subito con un primo brano, perché la parte, guarda, letteraria era, l'abbiamo fatta. Aneddoti o aneddoti? Aneddoti. Ne parleremo. Simone, buonasera anche a te. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Iniziamo con il primo brano che non vedo l'ora di disannunciare. Grazie. Tonight is the night, decision time. Why won't you squeeze me with all your mind? Let him know, if you don't let him go. Do you really love your man? You say yes, I Dusky Tonight. Ma Dusky Tonight, bellissimo, questo veramente. È il tastierista nonché mente creativa degli African Unite. Ne parlo come se sapessi quello che sto dicendo, ma soprattutto è evidente che non sia così. Si casca a fagiolo per l'argomento della serata. No, no, infatti, come sempre. E invece c'è un nesso che te lo dirò dopo. Bene. Si fa per dire. Radio F, Piazza Alta. Bravo. 89.2 in FM. Ancora. www.radiof.it. Dai. Su web o diciamo. Basta, su internet, in generale. Ok. In generale. E poi. Tramite tutte le vostre applicazioni per Android o. Quell'altra o che non ci viene in mente. Ok. O iPhone. Ma ci possiamo anche sentire telefonicamente, sì, in diretta. Se avete bisogno di qualcosa, 0576 squillo. Facciamo anche consegne a casa, però dopo le 11. 0575648276 oppure 392 490 0800, dove potete WhatsApparci e potete dire anche quello che pensate di me, di te. Chiaramente di loro. L'amministratore casserà ogni commento che non. E non si è evidente calando Marci solo. Ok, stasera che sera di chi parliamo? Parliamo di sport, di duro sport. Ma che duro sport? Di durissimo sport, perché c'è sport e sport. Esatto. Di c'è uno sport, quello che faccio io sul divano. Ma no ma proprio allora parliamo di ora io dico una cosa e poi i nostri ospiti ci correggeranno subito, perché lo dico banalmente tanto per far capire gente come me, Marcello. È una banalità di corsa a piedi, ma proprio ho detto la base, è tutta sì, un'altra. Diciamo che già mi guardano un po' schifati. Lo so, ma d'altronde non facevo per far capire tutto. E ne parliamo con delle persone, con un atleta che ormai è riconosciuta, ma più di corsa che ferma, cioè nel senso. Ah, infatti guarda che per tenerla qui dentro allo studio siamo, tra l'altro, come le immagini dire, poi ci faranno vedere il problema. Tra l'altro siamo al secondo piano con lo studio, certo. Lei l'ha fatto 8 volte ripetuta, sì, perché ha detto solo per è defaticante. Ma presentati te, vai. Siamo con Caterina Corti. Ciao. Buonasera. Detta, ciao. Detta per gli amici la Ruspi. Che poi ci spiegherà. Che poi ci spiegherà il perché. E con Vittorio Polvani, il suo allenatore. Buonasera. Ciao, buonasera. Benvenuti. Allora, ho detto che parlavamo di corsa, correggetemi subito. Dite. No, va benissimo, di corsa. Parliamo di corsa correndo, bello. No, correndo con noi no, non ce la farete mai, anche se un passato lontano c'è stato. Ma il termine, diciamo, sembra generico, in realtà racchiude tante specialità. Sì, no, in realtà, per far capire veramente chi, per pochi che non sanno, Caterina, qual è la disciplina che fai? La te, come si chiama ufficialmente? Si chiama trail. Trail. O trail. Corsa in montagna. Ecco, già per me questo è un... C'è un'incongruenza andare in montagna. È il riassunto dei film, insomma. vabbè. Dopo saremo più seri, no? Lo dico soprattutto per i nostri ospiti. Tante domande, no? La prima qui vuol dire che si può resistere al trail. Sì, assolutamente, sì. Perché poi dopo non svegliamo subito tutto, ci dirai tutto quello che hai fatto, almeno una parte, le più importanti, che sono incredibili. Ma io la prima domanda tecnica che faccio a tutte e due è: perché? Ah. Perché? Perché? Perché non si parla di un chilometro o due, diciamo, no. Che hai fatto al massimo quanti chilometri? Tanto 120. Che... E a piedi, no? A macchina. Io ci misuro il consumo della macchina. Ecco, partiamo da questa domanda per poi ritornare indietro a tutto. Parto da te, Caterina, poi lo chiedo anche al tuo mister allenatore. Perché boh, è la risposta, che sembra banale ma o sciocca, però è fondamentale. È una passione nata, diciamo, fin da bambina sulla corsa, e poi dopo nel tempo, considerando quelli che sono anche i limiti di ognuno, quindi nel mio caso era, non lo so, però la velocità intesa come il velocista, quindi il velocista sia il podista che diciamo l'atleta su pista, e la passione di viaggiare, perché alla fine questi sono dei viaggi, non sono solo delle corse, sono dei momenti che si passano fuori per ore, dovrebbero essere meno ore a volte, però alle volte sono anche più ore. E sono viaggi che ti portano, insomma, ad essere in autonomia o comunque in semi autonomia, quindi in autosufficienza o semi autosufficienza alimentare e idrica, attraverso tutti i paesaggi dell'Italia e non. Si spazia anche Svizzera, Francia e quant'altro, insomma. Carrenzo, da queste poche parole non so se saremo in grado di sostenere la trasmissione. Tutta la prima dove avrai lascio le domande scritte. Banalmente hai detto corsa. Io stavo pensando di domandare se scappano da qualcosa o rincorrono qualcuno. Questo lo chiediamo al sollenatore Vittorio. Sì, ha ragione, perché la corsa è il movimento, senza fare filosofia. La Caterina o le persone che fanno questa attività, in definitiva, hanno un'espressione. E la corsa è il movimento. Ognuno sceglie il suo movimento, come stare in un divano, come andare a fare una passeggiata, come andare in centro invece che in campagna. Questi ragazzi, a cui va riconosciuto soprattutto la capacità di farlo dopo un lavoro. Esatto. Quindi questa è una cosa che va sempre sottolineata. Sono dei grandi professionisti nel momento in cui fanno il gesto atletico, ma sono dei dilettanti, perché vivono in un'altra professione. Certo. Scelgono il loro movimento, la loro qualità della vita, attraverso un'espressione. Lei la trova in queste dimensioni della montagna, perché il trail rispetto alla strada, rispetto alla pista, ha una concezione più vicina alla persona, perché si corre, si cammina, perché c'è una visione di un panorama, perché c'è una conquista di se stessi nell'arrivare, non so, a 3.000 metri, a 2.000 metri, nel fare 100 km, 70. Molti in psicologia la considerano anche un'autostima, non è un caso. Beh. E quindi questa è una cosa che arricchisce ancora di più questo movimento, dove c'è spazio per tutti. L'importante è che le persone non è che confondano la corsa per il trail, per la pista o per la corsa che c'è il donatore, per esempio, che viene fatta qui la bellissima. Certo. Ognuno si sceglie la propria qualità. Bene, io direi che siccome la Caterina deve fare 4 rampe di scale ogni 5 minuti, dobbiamo andare per forza con un brano e poi dopo, quando appena finito, ripartiamo con le domande. Vuoi aggiungere qualcosa di intelligente? Facciamo accompagnare dal nostro amico. A posto. Buon ascolto sulle F frequenze. So nice. Non smetterò mai di ringraziare Simone per questo brano, perché Beck, wow, cioè più facile di così. Fino all'ultimo movimento. I musicisti mi sanno apprezzare. Bene. Torniamo in studio con i nostri ospiti. Piazzalta Radio F, non abbiamo ricordato le pagine. La pagina Facebook di Radio F, appunto. Radio F. E poi avremo il nostro anche. Le nostre immagini verranno. Sì, nell'aereo. È difficile capire, Marcello. Amici di casa, mi chiedo pazienza. Perché comunque poi ci sarà una traduzione per tutto questo, stampata proprio, manderemo a casa dei moduli. Hai una domanda intelligente, no, per i nostri? Vogliamo ricordare che siamo qui con Caterina Corti, appunto, e Vittorio Polvani. Stiamo parlando, ditelo voi. No, stiamo parlando di sport, stiamo parlando di trail, ma secondo me stiamo parlando anche, e parleremo molto, di carattere, sicuramente, di psicologia, tenacia, di sofferenza, di risultati e insomma di conoscenza di se stessi. Esatto, io volevo chiedere, dico esatto proprio veloce, quindi sì, vabbè, zitto. Gli scemi si fa così. Volevo chiedere a Caterina, prima ho chiesto perché era un modo tanto per iniziare, eccetera, però tecnicamente proprio con cosa hai iniziato? Cioè adesso sei arrivata a questa specialità, ma te la prima volta sarai andata a fare due corse, non lo so perché. Ho iniziato con una mezza maratona. Ma sgambatella. Mica tanto due corse, 22 chilometri e spicci. Mezza maratona del Trasimeno, con la Trasimeno, in 1:45 ho fatto la prima mezza maratona, ecco. E poi con la maratona. Subito? Subito, dopo 4 mesi ho fatto la maratona, 4-5 mesi ho fatto la maratona di Firenze. E il tempo è incredibile. 3:36. 3:36, magari qualcuno non è nell'ambiente, non si rende conto, ma sono tempi di tutto rispetto, giusto mister? Sì, sì. No, perché io lo dico, ma insomma, poi potrei essere meno credibile, anzi sono meno credibile. E dicevamo anche fuori onda, appunto, che la corsa su strada, chiamiamo, che qual è la maratona o la mezza maratona, si differenzia soprattutto dal punto di vista del gesto, del ritmo, giusto? Se sì, perché nel meglio. Trail normalmente gli atleti camminano, possono camminare, correre, è una caratteristica. Ovviamente i primi, quelli che arrivano, come si dice, a podio, i top runner, la corrono tutta. Però nel trail c'è proprio questa filosofia di una corsa che non è esasperata. Nella maratona, nella mezza, nella corsa su strada, la filosofia principale è proprio il movimento, l'atleta che per tutto il percorso deve stare, correre contro se stesso per arrivare il prima possibile. Poi il tempo è sempre indicativo, però questa è una caratteristica diversa, sono due modi diversi. Ecco, io ho una domanda, una curiosità. Quanto incide la mente sul corpo o viceversa, diciamo, per raggiungere dei risultati, per trarre anche appagamento da tutta questa sofferenza, da questo allenamento che si capisce che è duro, continuativo, costante nel tempo? Presumo ci sia una formazione, una evoluzione sia fisica che mentale e caratteriale nel tempo, non so. Non so se vuole prima rispondere l'atleta. Dici atleta. Allora, io sono partita dalla strada e ecco, appunto, la strada prevede un ritmo, un certo ritmo che con un problema o più problemi fisici diventa un po' invalidante. Quindi se l'atleta comincia ad avere, specialmente nel mio caso, quindi avevo 31 anni, avevo 28 anni scarsi, comincia a fare la prima maratona con dei problemi fisici, è vero che l'asfalto, tra virgolette, invalida non il aiuta. Tempo, non aiuta. Quindi se uno vuole avere dei risultati in termini di tempi, di tempistiche, allora la strada non è proprio quella migliore da seguire. Per questo infatti io a seguito di un infortunio ho cambiato. Dalla strada mi sono ritrovata così per caso con un primo trail, tra l'altro di nemmeno 26 km, non era una cosa lunghissima. Una sciocchezza. Io non l'avrei fatto. Forse non vale nemmeno ricordare. Ormai che ci siamo, va bene. Mi sono appassionata al trail. Però riconosco che la mente e comunque il carattere incidono parecchio anche sul risultato del trail, perché senza, diciamo, convinzione, senza sicurezza, senza tranquillità, anche serenità, non si corre. Forse paradossalmente si corre meglio una maratona con qualche pensiero in testa rispetto a un trail. La mia visione è un pochino diversa perché faccio l'allenatore. Non credo ci sia una differenza, vale a dire, Tutti quanti hanno delle motivazioni che portano a correre, ma per rispetto di se stessi, prima di tutto, cioè la qualità della vita, lo star bene, affrontare quotidianamente la propria vita, ci vuole un allenamento. Quindi ci vuole una grande motivazione, come in tutte le cose, ma se non hai un buon allenamento non arrivi da nessuna parte. Cosa succede alle volte? Che le persone credono con questa filosofia, con questo spirito giustamente libero, di poter sopperire. Va bene se uno corre per il divertimento, quindi corre senza cronometro, corre senza un pettorale, perché nel momento in cui si mette un pettorale, nel momento in cui si mette un cronometro, comunque si fa una competizione con se stessi. Questo dispiace quando non viene riconosciuto, perché toglie l'essenza della corsa. La corsa è diversa dall'allenamento. In allenamento io mi diverto ad arrivare da qui allo stadio dei Pini e 5, 10, 20 volte. Poi arriva la gara e ti dicono in 100 partite da qui allo stadio dei Pini, che arriva primo, secondo. Questa è adrenalina e è una sensazione positiva. Non bisogna essere presuntuosi, certo, nel viverla. Per cui è importante che ci sia una grossa motivazione dell'atleta che è convinto di voler conoscere, superare se stessi, ma una adeguata formazione, metodologia di allenamento. Altrimenti rischi che ti fai male, altrimenti rischi che non rispetti te stesso. E molto spesso queste cose si confondono. Io avrei un'altra domanda, penso sulla stessa linea. Seguendo altri sport, appassionato di altri sport, ad esempio il tennis, hai un coach vagamente di tennis, hai un coach che ti spiega determinate cose al mio livello, ai livelli top si parla di tutte altre cose. In questo sport l'allenatore ovviamente non credo che quando arriva a un certo punto il proprio atleta gli spieghi come mettere il piede a terra, non lo so, sarà più una cosa mentale su come affrontare determinate, come vorrei la risposta da tutti e due, nel senso quello che gli dici te a Caterina e Caterina che cosa ne pensa, quello che ha imparato da te. Per risposta devo rispondere prima io, perché certo, questo ti fa capire il rapporto che c'è tra allenatore e atleta. Esatto, l'allenatore fa tutto, ecco. Quindi l'atleta non conta assolutamente niente. Mi sembra giusto, arrivederci. Ciao Caterina, finiamola, rimaniamo, cioè, con Vittorio. È un discorso sbagliato. Io ho avuto la fortuna nella mia formazione, ho fatto il professionista in atletica leggera, di allenarmi tanti anni a Formia con Pietro Mennea e con il professor Vittorio, il suo allenatore. Beh sì. E in questi anni ho imparato una filosofia che poi è quella dell'allenamento, che l'allenatore fa l'allenatore, l'atleta fa l'atleta. Quando io e la Caterina ci alleniamo, io sono l'allenatore. Se l'allenatore ti dice che fai 10 volte le scale per venire di sopra, si fanno. Nel momento in cui l'atleta mette in discussione, certo, o pensa una cosa del genere, il rapporto è già finito. È un po' come una specializzazione di ruoli. Poi quando tu hai fatto la tua metodologia, l'allenatore finisce il suo compito. È brava l'atleta, vale a dire che tira fuori quello che ha. Non è mai bravo l'allenatore in un risultato. È bravo l'allenatore che sa individuare la strada verso l'atleta, ma il merito dell'atleta è tutto il suo, perché è capace. Quindi sono due cose diverse. Quindi per ogni atleta, ciascun allenatore dovrebbe, un allenatore dovrebbe individuare il metodo giusto. La migliore cosa è comunque su argomenti. Fai conto, io facevo i 400 e c'erano i 400isti che venivano dai 200 oppure quelli che venivano dagli 800. Ci sono distinzioni, non è proprio così facile. Un po' anche nel calcio, finalmente dopo tanti anni si parla di personalizzazione degli allenamenti, perché uno stopper non può, un centrale, certo, non può essere allenato come un esterno. Questo in massima rimane il concetto. Poi è chiaro che noi qui siamo persone che si allenano alle 7 la sera, persone che si allenano, noi chiamiamo urban trail, perché esci di casa, fai il circuito intorno a casa, perché non puoi andare a casa al campo, non ti puoi allenare, devi sempre tenere un equilibrio. Tu facessi il professionista sarebbe tutta un'altra cosa, ma specifichiamo, qui di professionismo non c'è niente. Chi si illude di fare il professionismo prende il treno per andare a Milano e scende a Napoli la mattina. Ecco, perfetto. Caterina, che cosa come recepisci? Vittorio è stato il tuo primo allenatore? No, il secondo. Ecco, primo allenatore quello era... bravo. No, il primo allenatore è l'allenatore a distanza, allenatore di una professionista, appunto. È un allenatore che ho conosciuto tramite un'altra professionista, bravissimo allenatore, non so se posso fare il nome, sì, che è Giovanni Schiavo. Però ovviamente, come diceva anche Vittorio, l'allenatore è tale in virtù del fatto che ti conosce, ti vede, ti corregge, certo, ti segue. se non c'è la vicinanza con l'allenatore è anche difficile alzare il telefono e dire: bene, io stasera non riesco ad allenarmi perché ho un leggero dolorino al ginocchio, però non troppo meno. Telefonicamente a distanza ti dice: vabbè, se senti dolore non lo fare, se non senti dolore allenati. E questo è un boomerang, perché ovviamente telefonare a Vittorio e dire: avrei un dolorino, significa: quanti mille avevi da fare? 10? 12. Quindi gli fai: no, allora mi è passato e non ce l'avrò per 10 giorni. Allora poi forse sono 8, ma è difficile. No, a parte gli scherzi, l'allenamento anche del trail è un allenamento, cioè, serio, non perché chi si allena e corre e basta non fa allenamento serio. Io lo facevo fino probabilmente a conoscere Vittorio, però allenarsi per un trail nella mia idea prima era andare a correre, fare tanti chilometri, più chilometri possibile, mettere le salite, andare alle Celle a Cortona, fare qualche percorso. Quando l'allenamento con Vittorio è lunedì palestra, martedì ripetute corte, mercoledì tecnica di corsa e corsa, giovedì ripetute lunghe, venerdì ripetute o corsa, sabato riposo, ma è un riposo sbaglio. Che se tante le volte non hai proprio voglia di farlo, è l'unica cosa derogabile all'allenamento, e la domenica è lungo, il famoso lungo, certo. Quindi o gara in preparazione di altri. Voglio dire, Marcello, mi sembra che anche noi da lunedì, sì, ora proprio lunedì è un menù variabile. A prezzo variabile. Quanti chilometri fai a settimana di media? Saranno 70. Di prove ripetute oltre, in generale. In genere sono 10 km al giorno minimo, sì. Tra riscaldamento e poi corsa. Con il lungo si va dai 70 agli 80 km. C'è gente che non li fa in macchina. Scusate, insomma, forse sono sintonizzato su un'altra radio, ma sono veramente dei numeri incredibili. A proposito di numeri incredibili, abbiamo fatto 11 minuti e mezzo di intervento. L'abbiamo mai fatto, Simone? Forse una volta. Sì, forse sì. Soltanto, vuol dire che l'argomento è interessante. Soltanto quando eravamo sicuri che non ci piacesse la prossima canzone. E invece questa, ma la prossima sarà bellissima. Ora non saprei, però deve essere bellissima. Buon ascolto, simpatici amici. Yeah. Traffic, Dear Mr. Fantasy, eh? Yeah. Era il 1967. Super telegattone. Ma perché io? Ti ricordi quando trasmettevo da solo? No, perché no, abbiamo iniziato insieme 22 anni fa. Ci sarà un perché? Se stiamo insieme. Maledetta primavera. Che fretta c'era. Piazza Alta, sempre il 10 giugno, sempre in diretta, sempre con Vittorio e Caterina. Stiamo parlando di tanta fatica che fanno loro, noi no, eh. A proposito, Vittorio, ma te corri più, Vittorio? Fai no, no, io da 32. Ma siamo matti. Sei dei nostri, allora. Io da 32 anni che ho smesso. Che hai smesso da 32 anni? Di correre, sì. L'ultima gara. Hai smesso, avevi 12 anni. 12 anni. Ah, ecco. Il 10 luglio dell'84, ai campionati italiani a Roma. Tra l'altro, appunto, ci avevi accennato così velocemente, no, che sei stato atleta nazionale. Ho fatto una nazionale assoluta, nazionale militare. Ero nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Sarebbe la Juventus dell'Atletica. Questo non depone troppo. No, intendevi come non entriamo nella Juventus, non entriamo, perché volevo fare una battuta per la Caterina. Invece che riposo mi tocca. Sì. E quindi ho smesso il 10 luglio 84 alla finale dei campionati italiani prima di Los Angeles, perché c'era il doping nello sport, nell'atletica. Ci chiedevano di doparci. Io insieme a tanti altri ci siamo opposti. Io sono un carissimo amico di Sandro Donati e suo. Sì. Mi ha allenato in nazionale, quindi siamo tuttora in contatto. Noi ci siamo opposti e io, come forma di protesta, smisi, mi congedai dalla Guardia di Finanza e da allora ho smesso di fare sport, perché era sporco. L'abbiamo denunciato, continuiamo a denunciarlo. Ma questo ovviamente vi rende onore. No, non ci rende onore, è una battaglia, quella del doping, che non è finita, non è neanche appena cominciata. Lo immagino. Questo è un argomento troppo serio, Marcello, per affrontarlo. Infatti, noi due, infatti te sono rimasto in silenzio, in religioso silenzio, perché no, torniamo a Caterina allora invece. Perché preferisco quando si parla della mente e del corpo e del risultato e non delle sostanze, esatto, che aiutano in modo sleale. Caterina, invece volevo chiederti, abbiamo parlato un po' di tutto e di niente, nel senso, per sommi capi, però magari per chi non lo sa, i risultati più importanti tuoi, ma non solo i risultati come posizione d'arrivo, proprio le gare più importanti che hai fatto, perché sono cose a cui nessuno crederà, ovviamente, o che ti hanno dato anche più soddisfazione, ovviamente, insomma, ci mancherebbe. L'ultra trail fatto l'anno scorso, proprio in questo periodo, tra l'altro siamo quasi alla vigilia della nuova edizione a che cui farai? Parteciperò, che è la ultra trail Lavaredo, The North Face Lavaredo Ultra Trail, cioè una... che sono quanti chilometri e il dislivello? Perché 119 chilometri per 5600 metri di dislivello. Che è come fare una montagna di 2600 metri e scendere giù. Sì, diciamo che per quando il sole bacia le tre cime di Lavaredo siamo al 48esimo chilometro e non sono intorno già diverse ore. Il sole che bacia. Quante ore ci hai messo, scusa? L'anno scorso 22 ore e 29 per... Non perché ne avrei sicuramente messe 4 in meno, però ho impiegato circa 2 ore in più rispetto a quello che avrei fatto, perché ho perso 2 unghie degli alluci al 95esimo chilometro, tra il 95esimo e il 103esimo, e dopodiché con un gran temporale al Passo Jao, che siamo sopra i 2000 metri, una cosa del genere, e un'ultima discesa che porta Cortina, ho impiegato quasi 3 ore per 16 km. Apro una parentesi: per prepararsi a fare una gara che dura 22 ore con questi dislivelli, ovviamente quello è il punto massimo, cioè nel senso non è che farai una prova da 22 ore durante gli allenamenti. No, non l'ho fatta. Cioè come ci si arriva? Però. Ci si arriva a seconda delle metodologie dell'allenamento dell'allenatore. Chi pensa che bisogna fare 22 ore di corsa, chi bisogna farne 24, chi come me bisogna farne 10 o 12 al massimo. Le metodologie di allenamento sono il DNA di un allenatore, sono la coerenza di una metodologia. Quel sentimento che vive l'atleta lo vive l'allenatore, che non può essere inventato, ovviamente deve avere delle basi. Certo. E quindi qui ci vogliono dei titoli. Per questo diciamo che in Italia lo sport deve essere gestito da chi è laureato. Siamo contro, per esempio, a tanti corsi che vengono fatti dalle stesse federazioni perché sono di buon esempio, ma non sono nella sostanza fondamentali. Perché mandare una persona a correre 10 minuti, a giocare una partita di 90 minuti, a giocare al tennis, è una responsabilità, certo, verso che ti viene delegata. La Caterina si sta preparando con una filosofia che deve rispettare il massimo il suo anche modo di vivere. E negli atleti che io seguo, che fanno queste distanze, non si arriva mai a superare il 50-60% della prova. Chiaramente quelle prove le facciamo con un criterio, le facciamo con una qualità. Però questa è un'interpretazione, poi ha ragione chi vince, o se l'atleta arriva in fondo, come ieri sera sono state le gare, ti mandano il messaggio e ti dicono noi siamo contenti. Allora vuol dire che siamo, certo, che non ci sono gli allenatori bravi, ci sono gli atleti bravi. Ripetiamo questo, in questo è una cosa che stai ripetendo più volte. Altre invece, e quindi vuol dire che ci credi in questo, certo, altre invece gare importanti per te, quantomeno, cioè a parte importanti in senso generale, ma anche per te, Caterina, che hai fatto, che ti ricordi, allora, con piacere. Sella Ronda. Sella Ronda l'ho fatto 2 anni, anche quello a fila. Diciamo sempre le distanze perché Marcello non ci crede. Sella Ronda sono 54 km con quasi 4000 metri di dislivello, okay. Però sì, quelle, credo sia attualmente fisica, insieme a un'altra che è l'ultra trail della Godorta, 90 km, 86 km. La Godorta, sono quelle queste più saranno sotto il livello del mare. No. Da Orta, quasi. Sono quelle che ricordo con più piacere, con più soddisfazione alla fine, e ovviamente difficili come, ecco, io infatti ti volevo chiedere una cosa, hai fatto un accenno sul problema delle unghie dei piedi nella la scorsa edizione della Lavaredo, ma quando senti che in una corsa che dura quasi un giorno che qualcosa ti potrebbe mettere in difficoltà, ecco, che succede anche a livello mentale? Succede che, come ad esempio l'anno scorso al Sella Ronda, ho sentito intorno al 18° chilometro per me un sassino dentro la scarpa che però dava parecchio fastidio, quindi era un bruciore molto forte. E niente, sono arrivata in fondo perché ho voluto fortemente arrivare in fondo. Quando poi ho aperto scarpe e calzino, è risultata una bella piaga che ho creato in 50 km e che mi ha portato a 10 giorni di stampelle, ecco. Addirittura. Quante paia di scarpe all'anno consumi? Ecco, qui avrei paura del vecchio a casa, cioè del mio marito, che è un costo importante. È un costo importante. Comunque sono una media di circa 6 paia all'anno. Immagino, tre però, da running e tre da trail. Scusa Enzo, prego. Credo che debbano essere sempre accompagnate da una borsa intonata tono sul certo. È anche completo. Deve essere fashion. Assolutamente. Avrai un plantare tuo, immagino. No, plantare no. Ecco, ma cambiare le scarpe, immagino userai le stesse, nel senso lo stesso modello, però non è mi raccontano che insomma quando prendi il paio di scarpe nuove, facciamo così, nel tennis, visto che è l'unico, sì, quando compri la scarpa nuova le prime 2-3 partite, certo, sono dolorose perché infatti non si compra la scarpa nuova prima della gara, certo, esatto, si assolutamente compra la scarpa un bel po' prima, ci si fa una media di, allora, una scarpa in genere, per così dicono, deve durare massimo 400-500 km. E 400-500 km una scarpa da running li fa prima di arrivare alla maratona, ecco. Quindi una scarpa da trail si compra anche due mesi e mezzo prima e si porta come scarpa principale in una gara lunga con un cambio No, dice Marcello, mi stava indicando. Forse l'allenatore tecnico. Vittore vuol dire qualcosa. No, no, che poi a correre sono le gambe, non le scarpe. No, no, però no, ci mancherebbe altro, ma no, visto che il problema. Perché nel mondo del tre dovete capire. Ah, dopo sì, dopo la scarpe, ah, ma sì, ma in tutti, c'è in tutto una lo filosofia sport. Che è uno spettacolo guardarla da seduto, no? Te è un film, andrebbe seguito, perché è una specialità meravigliosa, ripeto. Però sta assumendo sempre di più un aspetto tecnico e molte persone che invece vivono di questo sentimento lo negano, questo senso tecnico. Quindi tu vedi gente che la domenica si appresta a fare gare senza motivazioni apparenti, con orologi di ultima generazione, scarpe di ultima generazione, zaini, maglie termiche di quelle che io quando le guardo dico: ma se te ci vai con una Fruit normale che succede? Ma scherzate, dice, ma dopo c'è la sudorazione. Poi vai a vedere i tempi e dici: guarda, ma perché non sei rimasta a casa oggi? Ma non perché non andava bene. No, sì, ma per come ti sei presentato. Vivi il tuo spirito libero, vivi tranquillo. Ecco perché io dico sempre: ragazzi, preoccupatevi di avere le gambe. Certo. No, ma io infatti quando mi riferivo alle scarpe parlavo proprio di una questione di problema fisico della pianta che va a battere. Certo. Poi dopo, per l'amor del cielo. Poi considera che il discorso scarpa l'anno scorso nella gara di Cortina è successo con una scarpa che era stata testata mesi e mesi prima della lavareta. E nonostante questo. Nonostante quello, la scarpa probabilmente era precisa e in una gara da 22 ore se succede. può capitare la stanchezza, quindi l'inciampare in continuazione nelle varie rocce e quant'altro e cadere ha portato i risultati invece migliori, proprio perché ho letto qualcosa, però siccome io sono ignorante in materia non voglio dire castronerie, ve le faccio dire a voi. Ultimamente hai ottenuto ancora un risultato importante? Due circuiti, ecco. La seconda al Salomon Tour Italia, che è appunto un circuito di 5 gare italiane, tra cui il Sella Ronda, il Batrail, le Porte di Pietra che sono a Cantalupo Ligure e al Pago Trail, che non fece l'anno scorso, ho fatto quest'anno. E poi che ho lasciato? Il Ventasso, ecco, Maratona del Ventasso e poi il Tuscany Crossing, che è invece un circuito qui toscano fatto nelle gare della provincia di Siena, Firenze e anche Arezzo qualcosa. I risultati sono tali, caro il mio Marcello, lo dico a te per dirlo a tutti gli amici a casa, che Caterina ha avuto anche un articolo su una rivista importante di settore, che proverò a dire Sky Alper. Sì, sì. Sembra che, cioè, io mi preparo prima di venire qua. Mi stupisce anche a me qualche volta. Di qualche mese fa, tra l'altro, l'articolo, giusto? Sì, diciamo, mi sembra fine 2015, perché è venuto in conseguenza della qualificazione nel Salomon Tour. Quindi voglio dire, non è che, cioè, te non sei niente, Marcello, però chi è con noi, insomma, ha un pedigree di tutto rispetto. Ma io non ne avevo dubbi. Se vuoi fare una domanda intelligente, se no andiamo con un altro. No, io direi brano. Di. Non te la sei sentita. Un piccolo break musicale, ma la musica che Simone piace a Marcello, sempre su Radio F a Piazzalta. Vai, Simone. Thank you. PJ Harvey. Lo dico sottovoce perché era il 2016, ah, cioè di quest'anno. Era il 2016, ma di un altro mese, forse di un altro millennio. Capito? Normalmente roba un altro è uscita mondo. Il 15 aprile, non ha due mesi. Ma forse in un mondo parallelo che frequenta soltanto Simone Oneone. Guarda, siamo in molto a frequentare. Attenzione, di pochi che non attenzione, c'è polemica. Verrò. Facciamo polemica. C'è Maretta, perché Maretta. Tira su gli ascolti, ragazzi. Non mi ha dato soddisfazione. Ti aspetto fuori. La canzone che era più indicata per la serata non l'ho. Lo voglio dire, ci prepariamo la puntata, insomma, per modo di dire anche noi, ma ci prepariamo la puntata durante la settimana. Mi ha richiesto solo essere presente. Ecco, Marcello è presente. Io preparo un po' quello che vedete qua, lo dico agli amici a casa, insomma, c'ho un po' di cose scritte e Simone prepara la musica. Marcello lo ha implorato di mettere Run Baby Run, ma non l'ha voluto. Di Sheryl Crow. Ma sarà... ora se la trovo su una piattaforma, la mando un attimo. Ma stavamo dicendo fuori onda con Vittorio e Caterina, appunto, stiamo parlando ancora di Trail. Ci stavi dicendo una cosa, Vittorio, riguardo a Caterina. Sì, è una cosa importante, perché questo riguarda il rapporto fra me e la Caterina. Tra parentesi, un rapporto voluto, noi ci siamo cercati. Un po' come se ci fosse una sintonia. Musica di sottofondo, per favore. Perché è molto importante questo che si stabilisce, no? Io con i miei atleti, ci deve essere sempre un sentimento. A me quello che mi ha sempre colpito della Caterina, pur conoscendola, è che lei ha sempre corso con un handicap. Cioè lei quando parte, come se a un certo punto delegasse le altre e gli altri di andare. Purtroppo ha questo problema fisico che non è stato mai risolto e purtroppo si risolve male, che la condizione. A me questa è una cosa che mi ha sempre, quando l'ho poi scoperto, ho capito certe cose, l'ammiro molto come allenatore, come persona, perché non tutti sarebbero in grado di affrontare chilometri, classifiche, valutazioni, critiche, comunque quello che può esserci, che è giusto che ci sia, partendo con un handicap. E questo fa onore al movimento, allo sport, fa onore soprattutto ad una persona che tutte le volte ci mette la faccia e che ha pagato anche oltre, in termini anche di risultati, di gratificazione, quello che gli si aspettava. Io mi auguro che lo sport le possa un giorno dare quello, semplicemente quello che si merita, perché è un'ottima atleta, è una persona che vi giuro in allenamento si allena benissimo, perché è una persona intelligente, una persona corretta, una persona leale, e quindi se lo merita. Speriamo che questo sia di buon auspicio per tutti, perché lo sport dà messaggi, lo sport è movimento, però è anche un modo per comunicare con gli altri. Lei comunica nella maniera giusta. Ecco, quindi dicevi, Vittorio, che se uno potesse risolvere con uno schiocco di dita anche quei piccoli problemi che uno ha, le potenzialità di Caterina sarebbero... Sono enormi, perché è un atleta che nel 2014, se non sbaglio, ha fatto 3:32 in maratona senza prepararla dal punto di vista professionale. Un atleta che ha prima detto che ha una mezza la prima volta in 1:45, se un atleta del genere la porti a correre tranquillamente 1:30, che potrebbe fare benissimo, può correre sotto le 3:15, 3:10 la maratona, è un atleta che in un trail fa quello che le pare. Purtroppo non è che è fantasia, noi lo diciamo per correttezza, la realtà è un'altra, ma non è un problema. Lei ha una grossa sindrome seria che la condiziona, però come tutte le volte questo, si presenta e lì la corre e arriva in fondo, e questa è una vittoria. Noi, ovviamente, Caterina, ti auguriamo di superarla. E noi, pensa, è venuto qua Luca Vanni 2 anni fa, esatto. E dopo quello è arrivato in finale in Brasile, quindi portiamo fortuna, almeno lì siamo stati sportivamente, portiamo bene, speriamo di farlo anche con te. Quindi noi tifiamo chiaramente per Caterina. Anche, ma ti volevo fare un regalo un attimo, perché scusate, perché Simone non l'avrebbe mai messa. Ma come non l'avresti? No, nel senso, ma per far dispetto a lui, certo. Va bene, ti ringrazio. La tengo in sottofondo. Va bene. Allora, per arrivare poi al ritornello, una cosa che abbiamo detto, che canteremo, diciamo, la trasmissione, diciamo, si è un po' incentrata sullo sport, su Caterina, sull'allenamento, eccetera. Ma quanto di quello che Caterina fa, o del trail, singolo, o se c'è anche un movimento importante intorno, se c'è anche modo di fare squadra correndo trail a questi livelli o facendo questi tipi di sport a questi livelli? Fare squadra c'è modo in tutti gli sport di fare squadra, e si fa con la correttezza, con la trasparenza e con l'amicizia. Tanti confondono il risultato, il primo e il secondo, con l'amicizia verso il terzo e il quarto, come dico io. Allora, se io devo essere amica col terzo e il quarto perché sono arrivata prima, sì, siamo tutti amici nel trail. Se no c'è la competizione, la sana competizione, quella del si va con le proprie capacità fino in fondo, e questa un po' me la rimprovera l'allenatore, se però è lo spirito trail. Se c'è bisogno di soccorrere qualcuno piuttosto che di incentivarla a arrivare in fondo perché in quella giornata non è motivato, io sono la prima che si ferma, insomma. E questo però sì, questo sì. Però ufficialmente, diciamo che ufficialmente sì, per radio diciamo di sì. Però obiettivamente, ecco, la squadra si fa in questo modo. Poi ognuno corre, è uno sport singolo, ognuno corre con le sue gambe, la sua testa e per il suo risultato. Certo. A proposito di squadra, comunque te sei affiliata a due gruppi sportivi, sì, giusto? WISP, per quanto riguarda l'affiliazione WISP, alla Vis di Foiano. Sì. Per quanto riguarda FIDAL, alla Mugello Marathon. Questo perché ci spiegava Vittorio anche inizio trasmissione. Sì, c'è una differenza quest'anno, sarà ancora di più nel 2017, che il trail, la corsa in montagna e su strada sono a questo punto sotto la Federazione Italiana Atletica Leggera. Non è stata una cosa presa bene dagli enti di promozione, però purtroppo per fare certe gare bisogna essere tesserati FIDAL. È come se uno volesse giocare in eccellenza della Federazione Italiana Gioco Calcio con il Renzino. Magari gli amici più lontani non hanno capito, però è ovviamente sì, il Renzino è una squadra amatoriale che ha la sua realtà, che è importante, esatto, che ci sia nel territorio, esatto, perché se non ci fosse il Renzino non ci sarebbe il Foiano e viceversa. Esatto. Le finalità sono diverse. Perfetto. In questo caso dal 2016 al 2017 la corsa trail montagna ha preso una finalità verso il Foiano, senza nulla togliere, certo, a quello che rimane come sport di partecipazione. Ma comunque, Vittorio, è un'impressione che mia negli ultimi tempi, negli ultimi anni, nello sport, ritorniamo un po' al concetto iniziale della trasmissione, della corsa, negli ultimi anni c'è stato grande partecipazione, grande avvicinamento in generale. Guarda, è vero, perché non è un caso che anche in un momento di crisi, questo è uno sport povero, anche se poi c'è gente che se vuole spende anche un sacco di soldi, però un paio di scarpe, una maglietta, esci dal, certo, lavoro, da scuola, non hai bisogno di impianti, non hai bisogno di pagare rette, non hai bisogno, è diciamo un ritornare un po' come se era prima l'oratorio, dove c'era questa voglia, basta di muoversi, un pallone per... sì, basta un po' di fantasia. Io dico sempre che lo sport in un momento di crisi è il comune denominatore per la qualità della vita, perché in ogni paese c'è la strada per fare il campino, per fare una gara, sì, per giocare a tennis contro il muro. Se togliamo questo elemento fondamentale, lo sport è finito, perché dopo ci sono i professionisti, chi lo fa per lavoro, però le realtà, come per esempio io ammiro molto l'Avis Foiano, Roberto Concompagni, gente che dalla mattina alla sera nel territorio getta le basi perché ci sia la partecipazione. Capite? La partecipazione vuol dire un movimento che crei, certo, intorno alla gente, un interesse. Poi scegli il tennis, il calcio, la pallavolo, deve essere così, è un diritto. Però lo sport avvicina tutti, e la corsa negli ultimi tempi è diventato uno sport di libertà. Beh, io guarda, queste sono parole bellissime. Avevamo detto di terminare ricordando i prossimi appuntamenti, però sono arrivato al ritornello e volevo fartelo sentire. Io mi scuso con i radioascoltatori, ma se non la faceva... No, io lo faccio... Però è bellissimo. Sei bellissimo. Vittorio, sarebbe stata azzeccata. No, è eccezionale. Mi tacciano di non essere un intenditore musicale. Anche io ho il mio gusto. Certo. Io, ecco, più che libertà sportiva, la libertà musicale. La devo coltivare un po'. Siamo arrivati in fondo. Ricordiamo solo quello che farai più avanti, nei prossimi mesi, cosa ti aspetta... Mi dal punto di vista delle gare. Parlo in termini di chilometri, non di quali. 120 chilometri e forse 170 chilometri. Che fanno quasi no, 300. No, aspetta, una domanda, perché queste salirò anche sull'Etna. Annuncio anche questo. Queste distanze possono far anche fare degli incontri anche casuali. Terrai il colore dei capelli? No, perché uno che ti incontra magari in un luogo sperduto, in un posto ameno, dice: mi capelli rossi è la catena Ruspi che sta correndo, è all'84esimo chilometro. Momentaneamente okay. Sì, ma non è detto, ma cioè, potrebbe essere un colpo di scena sul colore dei capelli. Chiarisci aggiornati. Benissimo. Ah, tra l'altro, se vuoi ricordare la pagina Facebook che mi dicevi, oltre alla tua. Sì, è una pagina creata tra appunto me e una ragazza che corre insieme a me, che è un'amica, e la Ruspi e la Manu. La Ruspi e la Mano, benissimo. Diventeremo la Mano, la Ruspi, non mi ricordo bene, ma insomma siamo noi. Voi due, vi troveremo. Allora, ringraziamo allora, Vittorio per essere stato con noi. Grazie insieme a Caterina, e ci avete raccontato uno spicchio, una parte di uno sport affascinantissimo, soprattutto per chi lo vede come una chimera lontana, quindi per noi è affascinante. Divano, no, perché chiudo con questo: uno pensa, se tu Marcello pensassi di fare una maratona, pensi oddio una maratona, se lo pensa la Caterina dice ma meno male, va, mi stocchisco un po' le gambe, cioè, capito? Che fatico, no, ma fino al pensiero ci arrivo. È dopo il pensiero. Grazie ancora Caterina e Vittorio, grazie a tutti voi. Potete risentire questa trasmissione sulla nostra pagina Facebook quando Simone ce la farà a postarla, che è domani, insomma, non è... ecco, l'ho buttato su mi sono emozionato un attimo. Bravo. Noi ci risentiamo e ci ritroviamo venerdì prossimo, ma se ci seguite ci troverete anche in ogni dove. Vuoi dire una cosa intelligente? È impossibile. Silenzio calò sulla trasmissione. Grazie ancora, grazie Simone. Grazie a voi. Ma no, grazie a te. Ma dai, grazie a te Simone. No, grazie soprattutto. Ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao a tutti. Buon ascolto. Avete ascoltato Piazzalta. Piazzalta è un programma di e con Enzo e Marcello, e alla conduzione tecnica e alle riprese audio, video, Simone. One. Stasera l'ho fatta bene, eh? Quasi.